Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti, nata male il fraudolento colpo di mano provato dal centrodestra, da Salvini in particolare, del referendum sul maggioritario assoluto. La Consulta gliel'ha respinto e con questo cade anche il tentativo di agganciare questo referendum a quell'altro del taglio dei parlamentari per farlo passare sull'onda della cosiddetta antipolitica. Tutto questo è una sinistra stampa, ma per il momento Radio Bullet, buon ascolto. Dopo Gragnon e Villafranca Montes de Oca, per la prima volta ho superato il mio limite. Ho affrontato i miei primi 40 chilometri e l'interminabile strada per entrare a Burgos, grazie a Giongi. Non abbiamo trovato un posto da pellegrini a Burgos. Era tardi quando siamo arrivate, ma abbiamo goduto di letti normali, lenzuola pulite e una doccia tutta per noi. Da qui in poi le tappe si sono susseguite velocemente. Abbiamo mangiato strada, sassi, asfalto, centimetri di suolo, goduto degli alberghi e della magia che permea ogni incontro e che risponde a ogni necessità. Adoravo e adoro tuttora sentire il muscolo contrarsi e muoversi. Sentivo viva la natura e me con essa. Amavo vedere le frecce gialle in quel nulla in cui c'è tutto, perché era come se fossero lì per me e quindi per ciascun pellegrino a dare un senso alla fatica. Siamo lì e tutta una ragione, nulla è lasciato al caso. Non è più arrivare, anche se gli ospitaleros, coloro che gestiscono e accolgono i pellegrini negli alberghi, fanno sempre discorsi commoventi sui loro arrivi. Ma è camminare, solo andare e camminare, sperando che non finisca e desiderando allo stesso tempo di tornare trionfanti alla propria vita. Quando sei lì, ancora non sai cosa ti regalerà il cammino. Ci pensi, rimugini e fai previsioni in base alle tue richieste. Lavoro, amore e cambiamento sono i desideri più diffusi. In realtà ogni soddisfazione, ogni conquista, così come ciò che apprendi di te stesso e degli altri, diventano imprevedibili tanto quanto lo sono i programmi che si fanno per pianificare tappe e pernottamenti. Si stravolgono i progetti. Se non opponi resistenza, riesci a vedere che tutto è perfetto e ti arriva davvero ciò che ti serve. Non sempre coincide con ciò che vuoi. La paura delle mesetas, di questi altopiani caratterizzati da deserto, campi, sole e cielo, di cui ci siamo caricate a Burgos, si è sciolta alle prime tappe, quando fino a Formista e Ontanas ho avvertito solo un'immensa libertà di pensiero. Ma ancora non sapevo che gli ultimi 17 chilometri da Formista a Calzadilla della Cueza sarebbero stati dolorosi. Mi ha colto un senso di impotenza, di incapacità di sapere e conoscere quando sarei arrivata e quanto avevo già camminato. Non vedevo nulla oltre l'orizzonte, piatto e tremolante di calore. Non avevo una meta visiva né paesini intermedi che fungessero da ancora di salvataggio. Non c'era nessuno. E io lottavo con la mia perenne incapacità di visualizzare un futuro, con l'impazienza di sapere. Come si presenta agli occhi la meta? Quanti passi devo fare per raggiungerla? E cosa ci sta in mezzo? L'ansia della perfezione l'ho lasciata a Logroño. Calzadilla chiedeva impegno prima di entrare, la mia paura dell'ignoto futuro. Ho avuto la fortuna di incontrare Nando, un militare sloveno che mi si è affiancato all'apice della mia stanchezza e sofferenza. Mi ha chiesto qualcosa, non ricordo cosa, e alla fine ci siamo messi a parlare e a camminare insieme. Un due. In bastoncini di entrambi segnavano un ritmo nuovo. Insieme camminiamo meglio, insieme siamo più forti, mi dice lui. Io mi accorgo di avere più energia, di avere una spinta e di non rendermi nemmeno più conto di camminare e di farlo a passo sostenuto. Poi arriverei. Mi sembrava quasi un sogno e un'allegra favola poter incontrare nuovamente quell'uomo in mezzo al deserto. Mancano solo 3-4 chilometri. Alla notizia alzo le mie braccia e con esse le bacchette mi seguono trionfanti. Ci siamo quasi, ce l'ho fatta anche oggi. Ho subito pensato per un istante all'unica notizia che abbia letto in quel mese di atmosfera fiabesca. La morte di Robin Williams, sofferente. Ero affamata sul letto in alto, il meno desiderato. Ero forse appena arrivata, sporca, sudata, ed ero felice. Non posso dire di non avere niente nella vita, ma posso affermare che il cammino ti arricchisce perché si perde e si abbandona ciò che non serve. Aspetti di te che fanno male, modi di vedere, oggetti, necessità. Il cammino ti svuota la mente e il corpo, dandoti tutto. Impossibile non pensare alla mia felicità sul letto a castello di una camerata da 8 euro a notte, in confronto a quella morte, come molte, per un male che devasta e dal quale non ho dubbi che tanti pellegrini siano passati. Sì, i pellegrini. Siamo su quella strada con le nostre meschinità, leggerezze, difetti. Non è la fiera di uno zuccheroso vogliamoci bene, come spesso viene spacciato il cammino, e spesso fasullo. È il circolo del reale, di chi segue una freccia perché è divorziato, di chi lo fa per la malattia di un nipote o per problemi di alcolismo. C'è chi è stanco o è appena guarito, chi ha sofferto e ne è uscito, chi ha perso e chi cerca. Eppure la felicità permea ogni cosa. La bellezza, che alcuni chiamano Dio, è indivisibile da tutto ciò che abbiamo intorno. Quella freccia, quella bellissima e amorevole freccia gialla, può identificarsi con la fede, la ragione, la conoscenza, oppure con una passione, con l'amore, o ancora con un'amicizia forte, una relazione unica. Può essere ciò in cui crediamo e per cui pensiamo che valga la pena vivere. Le ultime tappe sono state più sicure, ma non meno ricche di riflessioni. Semplicemente io avevo acquisito una buona base e delle ottime fondamenta dai chilometri precedenti. Ogni tappa ha avuto la scintilla che mi ha reso una persona diversa rispetto al 31 luglio 2014. Posso dire che sia stato come un lento e lungo rinascere, un travaglio, nel mio caso fortunato dal punto di vista fisico, verso l'oceano, l'ultima tappa, nonché un dono del tutto inaspettato. Volevo arrivare solo a Santiago e invece sono riuscita ad avere il tempo sufficiente per vedere l'Atlantico e dire: ci sono arrivata con le mie gambe, i miei piedi, la mia mente. Grazie anche a Giongi, alla voglia di condividere con lei l'arrivo nella città di San Giacomo, con data obbligata per via del suo aereo. La determinazione, la visione d'insieme di ciò che stavo compiendo, mi hanno permesso di macinare chilometri, anche 40 al giorno, senza risentirne. Through the city backsides, I see the stars come out of the sky.

rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove e trenta minuti di questo 17 gennaio, buongiorno a voi, siete all'ascolto della nostra emittente, dentro Radio Zanardi ovviamente anche la pagina dei giornali che apre con la notizia che scrive e spara in primo titolo: zero in diritto, il referendum di Capitan Disfatta bocciato dalla Consulta. Parliamo naturalmente di Capitan Disfatta, ovvero Matteo Salvini, che si è visto rifiutare, lui e la Lega, questo referendum della Consulta alla Corte Costituzionale, che ha dichiarato giustamente perfetto descrittivo della Lega, manipolativo questo referendum, cioè imbroglione. E c'era il doppio imbroglio, perché poi naturalmente Salvini aveva appoggiato il taglio dei parlamentari per sperare che i due referendum andassero insieme nello stesso giorno elettorale, per poi trascinare l'uno o quell'altro e quindi fare un colpo di mano manipolativo. Ma non è andata, il colpo non è andato a segno. Allora il manifesto chiama le giuste proporzioni. Respinta la forzatura leghista, la Corte Costituzionale dichiara inammissibile il referendum elettorale pro maggioritario spinto. Elettorale spinto un po' così, troppo manipolativo. Salvini grida al furto di democrazia, la maggioranza davanti sul proporzionale. E poi naturalmente quali sono i verberi di questa vicenda? Salvini là di democrazia, il centrodestra promette battaglie in aula, la Lega insiste con il Mattarellum, perché loro contavano col 40% di avere il 70% degli eletti, questo era un po' il concetto, il famoso furto della democrazia. Impossibile ora per il PD seguire una strada diversa, già quella già concordata con i 5 Stelle, cioè avanti col proporzionale, dove fino a prova contraria, secondo un dettato molto semplice della democrazia, una testa, un voto, e contano tutti uguali i voti, non che uno voti il doppio, uno conta la metà. Il Corriere della Sera: no al referendum della Lega, legge elettorale, la Consulta boccia il quesito, è manipolativo, e Salvini è una vergogna. Salvini una vergogna, PD e 5 Stelle soddisfatti, spinta al proporzionale. Calderoli della Lega, che sappiamo Calderoli è quello che fa le porcate, il porcellum fuori firma Calderoli, quindi è un esperto in materia. Cancellato il popolo, torna la Prima Repubblica. Sembra che la Prima Repubblica non fosse un fatto democratico, adesso come si dice, con i suoi limiti clamorosi, ma insomma non è che la Seconda, Terza, Quarta Repubblica siano molto più democratiche. Fiano del Partito Democratico, che ora grida rimpiangi i regimi di Orban e di Putin, parlavano di riverberi. Ora saltano i vincoli tra i partiti, anche il dentro il centro-destra, perché naturalmente Forza Italia era inchiodata a una certa posizione da questa vicenda. È chiaro che potrebbe essere attratta maggiormente dal grande centro di Renzi, appunto le famose fibrillazioni all'interno del sistema dei partiti. Poi abbiamo naturalmente gli altri tempi, per esempio il Tempo di Roma, la Consulta inizia il tiro a Salvini, quindi il Tempo vede questo complotto demoputo giudaico, no? Dove c'è la Consulta, i magistrati, ci sono le ONG, il PD, qualche prete, insomma è una grande congiura contro chi? Contro Matteo Salvini. Ma vabbè, ognuno ha le sue chiodi. Il Messaggero: il proporzionale più vicino, dunque scendiamo allora, no referendum, ira della Lega, dice il Gazzettino del Nord-Est. Elezioni, addio al maggioritario, dice il Mattino. Il dubbio, bocciato il referendum della Lega, se scorriamo sempre i titoli dei giornali in giro per l'Italia, nelle edicole della Nazione, la Gazzetta del Mezzogiorno, la Consulta respinge Salvini, e questo è, e poi passiamo appunto ad altri giornali. Buongiorno Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e direi che questa notizia della bocciatura del referendum sulla legge elettorale inammissibile a cura della Corte Costituzionale prende un po' tutte le pagine. Io direi di partire dal Sole 24 Ore, giornale della Confindustria, che riepiloga più chiaramente, secondo il mio avviso, dice: non ci sarà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. La Corte Costituzionale lo ha dichiarato inammissibile perché eccessivamente manipolativo. E c'è Salvini che tuona: vergogna, della difesa del vecchio sistema. E dentro a pagina 6 c'è un articolo di Emilia Patta che parla appunto del no della consulta con Cartabia, la nuova Marta Cartabia, la nuova presidente della Corte Costituzionale. Questa fotonotizia, quella di ieri, è stata la prima decisione appunto di Marta Cartabia, e la decisione è a maggioranza, quesito troppo manipolativo. L'ira del Carroccio, del Movimento 5 Stelle e PD proseguono col Germanicum, sollevato anche Renzi. C'è anche un'intervista di Giovanni Maria Flick, l'ex presidente della Corte. Non è compito dei giudici stabilire la legge elettorale, per l'appunto. C'è ancora un forum politico su economia e società a cura di Lina Palmerini, che dice: la bocciatura che Salvini usa nel voto per l'Emilia, il no della consulta al referendum sulla legge elettorale che avrebbe fatto esprimere gli italiani sul tornare a un sistema maggioritario secco, è stato subito trasformato da Salvini in un argomento in più da portare alla campagna per l'Emilia Romagna, un argomento che sta sempre nel solco su cui ha fondato la sua battaglia per la presa della regione più rossa d'Italia, dare una spallata al governo di Roma e far tornare gli italiani alle urne. L'intenzione, insomma, è usare quel no della Corte per creare un clima, una convinzione per cui le istituzioni, oltre alla maggioranza, stanno tenendo lontano il popolo dal suo diritto di scegliere e di esprimersi. In effetti i suoi primi commenti ieri sera sono stati tutti sulla scia della privazione. Vergogna, il vecchio sistema che si difende, e c'è il PD e il 5 Stelle che restano attaccati alle loro poltrone, sempre virgolettato dei discorsi di Salvini. E poi è un furto della democrazia. E infine, prendendo di mira il PD, festeggiano se gli italiani non possono votare. Che triste fine che si chiama un partito democratico. Questo era l'articolo che riprendeva le parole di Salvini ai primi commenti a caldo di quello che era stata la decisione della Corte Costituzionale. Stesso argomento preso dalle pagine di Repubblica, anche qui la fotonotizia in prima pagina di Marta Cartabia durante la Camera di Consiglio della Corte Costituzionale. La sentenza boccia la richiesta di un referendum, sempre questi sono gli argomenti. Stesso discorso sul Carlino, no al referendum, la consulta alla boccia, e Salvini parla di furto alla democrazia. La Stampa, schiaffo a Salvini, il doppio petto al posto della felpa, sta cambiando anche l'immagine del capitano. Chissà cosa e chissà, quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. Io non ci Naturalmente noi preferiremo un grande c'è chi dice no delle masse popolari lavoratrici, ma nel frattempo ci accontentiamo, c'è chi dice no alle manipolazioni truffaldine dall'interno delle istituzioni. Ma novità sul versante anche della convivenza civile da parte del governo, ce le racconta il giornale. Via libera alla cannabis in tavola con limiti per birra, taralli e biscotti. Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale, la Coldiretti, una liberazione per le tante aziende del settore. Anche qui c'è chi dice no a Salvini, perché è un'altra delle tante battaglie di chiudere tutti i negozi del settore, questa era una promessa di Salvini quando era Ministero dell'Interno. Altro tema, alto giro. Congedo parentale, un mese per i papà. Il governo sta studiando una nuova forma di condivisione degli obblighi familiari, l'ipotesi di riforma. Sempre il giornale, questa volta firma di Simonetta Camminiti. Non trasferibili, i 30 giorni in più destinati ai padri non potranno essere passati le neomamme, quindi non c'è che uno fa il furbo e poi dopo sta a casa e continua a fare le mamme, il lavoro del dopoparto. Copertura, l'aumento per il permesso avrà ricaduto sui conti dell'INPS, allo studio il possibile impatto. Tant'è che il Corriere, che anche esso ricorda questa volta con la firma di Lorenzo Salvia il piano del governo maternità di 6 mesi, uno anche per i padri, due commenti. Un papà, Daniele Terrenzi, 42 anni, bene per le donne ma in occasione soprattutto per noi, e lei Giulia Ivaldi, 34 anni, con il congedo obbligatorio ci si vuole un cambio di cultura. Ed ha perfettamente ragione, perché leggendo per esempio Il Tempo c'è questa foto vergognosa, è un po' uno scherzo, no? Dove c'è Del Rio del PD che parla con Fico, presidente della Camera, e dice Del Rio: puoi sospendere un attimo la seduta che devo alla TA? Ora, a parte la goliardia, questo significa che per Il Tempo una donna non potrà mai essere né ministro né presidente della Camera, questo è perché deve allattare. Ma questa è la forma più becera della destra. Invece, così più problematico, ma con Stefano Zecchi, che pensa che uno non possa mai cambiare, uno sarà sempre, non possa mai migliorare nella vita, perché dice: un'idea civile ma velleitaria, quanti dubbi per questi mammi. Purtroppo, naturalmente, nessun papà che collabora attivamente con la mamma ammette di essere quella detestata, umiliante figura del mammo. Purtroppo essa esiste ed è molto diffusa proprio perché un papà non sa cosa fare, cosa essere in questa collaborazione con la madre. Sapete dove in un istante si riconoscono i mammi? Al supermercato. Guardate una mamma che, impettita, sicura di sé, passa per i quadri del supermercato prendendo a destra un pacco di omogenizzate, a sinistra una cornice per pannolini, lasciandoli cadere tra di sé, perché sa esattamente, senza doversi voltare, che il marito la segue spingendo il carrello della spesa. Quindi qui c'è anche un po' di lamentatio, no, mammona italiana. Detto questo, passo invece a sempre temi governativi più chiacchierati. Il caso Grigoretti si impiglia nella rete del regolamento. Questa è la nave della Guardia Costiera raccontata dal Manifesto con la firma di Carlo Lania. Lega e Forza Italia chiedono l'intervento della Giunta per il regolamento, dove sono in maggioranza. Protesta di PD, Leo e 5 Stelle Italia Valori, Italia Viva, scusate, che contengono due nuovi senatori. Poi è stato un riequilibrio della maggioranza in questa commissione, che era largamente in mano al centrodestra, adesso un po' meno. Il tema del lavoro vede questo: Italia Viva e PD e guerra anche sul lavoro, dalla prescrizione al Job Act. Provenzano: serve un nuovo statuto dei lavoratori, Renziano Dem e Marcucci lo attacca. C'è anche la pressione sindacale che, diciamo, seppur tardivamente, è arrivato a circa 10 anni di ritardo, comunque si fa sentire. Landini in piazza se il governo non ascolta, taglio del cuneo fiscale, incontro sindacati governo, Conte: siamo interlocutori disposti al dialogo. Sì, ancora continuiamo su politica e governo. Il Carlino invece ci propone il convegno che al Senato si è tenuto, organizzato da Salvini, dove dice no all'antisemitismo e stringe rapporti con Israele. Senza se e senza ma, Matteo Salvini si schiera con Israele. Ha fortemente voluto, organizzato al Senato, il convegno Le nuove forme dell'antisemitismo, dove usa parole nette. Chi vuole cancellare Israele, dice, ha in noi un avversario ora e sempre. L'antisemitismo della destra, dei suprematisti bianchi, è il nostro nemico, così come quello di sinistra. Bisogna combattere l'idea che gli israeliani non siano i nuovi nazisti. Noi niente a che fare con Casa Pound e Forza Nuova, afferma un nuovo attacco a Carola Rackete. Peccato che si sia dimenticato di invitare Liliana Segre. E c'è un caso che riguarda la Lega a Ferrara, e c'è un'offerta shock del leghista Solaroli rivolta a una dissidente. Un contratto a tempo indeterminato da dipendente comunale in cambio delle dimissioni dalla carica di consigliere. A Ferrara un audio può imbarazzare la Lega. Il 19 novembre 2019 il vice capogruppo in consiglio comunale Stefano Solaroli propone all'allora sua collega di partito Anna Ferraresi, da mesi considerata una piantagrane per le sue continue denunce sul degrado in città, consiglia di accettare l'assunzione a tempo indeterminato presso il comune di Ferrara, 1400 euro al mese con quattordicesima, l'oggetto dell'inchiesta annunciata da Piazza Pulita in onda sulla 7. Il caso finirà in procura, lo anticipa Mario Zamorani, candidato a Europa, che annuncia si configurano appunto vari reati. Ancora per quello che riguarda la Repubblica abbiamo Conte che dice che affare investire in Italia, Patuanelli, i 5 Stelle devono stare nel campo della riforma, e appunto queste sono le cose. E segnalo un articolo di Gat Lerner sull'antisemitismo, per l'appunto, dice Gat Lerner, il premier Conte ha nominato Milena Santerini coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, e Milena Santerini ribadisce la sua convinzione: per me gli ebrei si difendono difendendo tutti, l'odio è uno solo, accomuna le sue vittime nel cercare alla cieca. Questo era appunto l'articolo di Gat Lerner, che prosegue nelle pagine interne e dice: era l'estate del 2015 quando la grande fuga dei profughi dalla Siria in fiamme, con gesto altamente simbolico il memoriale della Shoah istituito sul binario 21 della stazione centrale di Milano, dove erano partiti i treni della deportazione degli ebrei verso lo sterminio, decise di aprire le sue porte allestì brandine e cucine da campo per dare accoglienza alle famiglie dei fuggiaschi. C'erano due donne legate da profonda amicizia dietro tale scelta, la sopravvissuta Liliana Segre e la pedagogista Milena Santerini, 66 anni, e insegna pedagogia alla Cattolica di Milano. Sì, allora come risponderebbe, come risponde questa mattina La Verità a Gat Lerner? Con la foto di Gat Lerner, l'odio paga, Lerner un programma in prima serata, perché lei non è un giornalista secondo La Verità, che invece i giornalisti ne ha ben pochi in redazione. Ma in realtà invece il giornale è scandalizzato perché manca una grandissima soubrette, una cantante, ballerina, una donna eccezionale a Sanremo, donna di destra, la Gregorati fuori da Sanremo. Ma no, ma questo proprio non dovevate farci, la Gregorati, la soubrette, io fatta fuori dal dopo festival per motivi politici. E poi c'è la svolta di Salvini con Casa Pound chiuso. In realtà, naturalmente, Salvini, che fa la cosa contro il razzismo, sposa il sionismo, perché sposa sempre più forti, in questo caso sposa Israele, non è certo sposi le cause degli emarginati per razza, religione o quant'altro. Anzi, leggo Friuli Venezia Giulia, fototrappole per migranti, il confine disumano della Lega, è il manifesto. Mentre dal centro di detenzione gradisca di Sonza arriva la denuncia degli operatori, la Lega allora non demorde, racconta Marinella Salvi. L'assessore regionale alla sicurezza e all'immigrazione, che il connubio è già significativo, ha dichiarato di voler collocare fototrappole spie, sapete quelle che si mettono nei boschi per immortalare gli animali a momenti più segreti, no? Ecco, questo per i migranti, per contrastare questo afflusso della sorveglianza dei migranti stessi, almeno nella zona di Trieste, dove lo sconfinamento è quotidiano. Dopo aver promesso droni e reticolati, la fantasia dell'assessore Roberti continua a dilagare. Perché non mettere quelle trappole tipiche del Vietnam, no? Dove ci cascava Rambo, no? Potrebbe essere il CPR trasformato in un carcere di massima sicurezza perché non ha commesso reati. Questo è nel frattempo appunto il convegno di Salvini contro il razzismo, tanto per raccontarne una più concreta. Poi citavi Ferrara, lo riprende naturalmente anche il Corriere di Bologna. Ferrara, il caso che imbarazza la Lega, il vice capogruppo offre un posto in comune ad una consigliera in cambio delle sue dimissioni. È così che si fa anche la campagna acquisti da Ferrara al Parlamento. Verso le elezioni, l'audio pubblicato da Piazza Pulita, si chiama in causa anche Fabbri, che è il sindaco. Lui replica: non so nulla, prende le distanze. Andiamo invece alla pagina dei 5 Stelle. C'è chi pensava che fosse impossibile avere un leader peggio di Maio, invece 5 Stelle perso un altro pezzo, per il dopo Di Maio ci prova anche Toninelli, direi ci prova Panciaterra, no? H24 lascia il senatore Di Marzio, dubbi sulla durata di facilitatori. Non è che è un gran successo questi facilitatori, facilitano la deriva dei 5 Stelle. Per il Senato, le parlamentari per il seggio nominale in campagna vince vince Luigi Napolitano, amico di Di Maio. Quindi in questo caso Di Maio si rafforzerebbe in campagna, ma tutte le crisi del movimento vengono segnalate nel retroscena del giorno del Corriere, la campagna nei territori, dei dubbi sul candidato scelto in Calabria, gli appelli del voto disgiunto in Emilia Romagna, perché sono molti dei 5 Stelle che in Emilia Romagna pensavano fosse produttivo un accordo col centro-sinistra, sfumato questo per il voto sulla piattaforma Rousseau, adesso pensano al voto disgiunto. A sinistra del PD tutto tace, dice il manifesto, i contenuti ci sono ma anche il contenitore, anzi si potrebbe dire ironicamente ce ne sono troppi, c'è tutto un dividersi molecolare di gruppetti, gruppettini, gruppettacci. Comunque i contenuti ci sono ma al sinistra di tutto tace, dice Antonio Floriglia, piagnisteo italiano, questo è quanto. Mentre per quanto riguarda la Italia Viva, andiamo al giornale, in quarta pagina c'è la Renzi, il PD è diventato la sesta stella, l'ex premier sogna la federazione del buonsenso, che ha un'assonanza con Berlusconi estremamente significativa, contro i Dem. Quindi questi sono amici e nemici, parenti serpenti, maggioranza. Scontro sulla giustizia. Voteremo per la legge Costa anche in aula? Assolutamente sì. Italia Viva con Calenda e Bonino contro il populista Emiliano. Ecco questo, perché populista ormai è un termine che è un elastico che ritrova tutto. Allora parliamo di giustizia. Parliamo di giustizia e andiamo al Corriere, perché in pagina 5 prescrizione, un'altra grana in mano al governo. L'appello di Conte, ma il duello tra Bonafede e Renzi. Il leader d'Italia Viva, non diventiamo grillini. Con Calenda una federazione in buon senso. Sì, che poi Renzi nella fotografia c'ha la faccia da grillo parlante, cioè da furbetto toscano. Comunque, il Dem Verini, e qui sono parole che pesano, che rimarranno scolpite nella storia. Possibile la svolta epocale del processo breve? Matteo cerca visibilità. Porca miseria, ed è lo stesso tono che ha anche Repubblica, pagina 10, un articolo di Giovanna Vitale, e dice: il PT attacca Renzi, ha superato i limiti, vuole aiutare la Lega. Il caso è dopo la convergenza appunto per il voto sulla prescrizione che Italia Viva ha votato con la destra, e ci sono anche polemiche su Callipo in Calabria e i pessimi sondaggi che lo danno in testa. C'è il sospetto, in questo articolo si parla di questo, c'è il sospetto che il leader Italia Viva abbia iniziato il boicottaggio in vista delle regionali. C'è Matteo Renzi in una fotonotizia con alle spalle la grande facciona di Zingaretti. Ancora un'altra notizia riguarda Conte. Mercoledì mattina nel cuore dell'Università della LUIS c'è stato un incontro con i grandi manager delle multinazionali Toyota, BASF, Nestlé, Nokia. Il premier rassicura sulla stabilità, dureremo 3 anni, non dubitate. Il presidente del consiglio ha parlato appunto a questi manager, la sede è quella di Via Pola, quartiere Trieste. E poi c'è un'intervista sempre su Repubblica a Bersani. Pronti per dare alla sinistra un nuovo partito, Stefano Cappellini che lo intervista, e Bersani dice: da questa situazione di crisi non si può uscire con i vecchi attrezzi, noi, il PD, le sardine, i cattolici, i civici, dobbiamo aprire un nuovo percorso. I centristi come Renzi e Calenda concorrono in un metro quadro di spazio e finiranno per allearsi. Il simbolo sarà il narciso che si specchia. Direi che questo quadretto è abbastanza notevole. Allora, l'Espresso pubblica questa frase, che lei non sa chi sono io, aggiornato. Sono un onorevole. Un intoccabile, siete morti, leghista di merda. Con queste parole il deputato renziano Gianfranco Lebrandi si è rivolto al militare della Guardia di Finanza colpevole di aver effettuato una verifica fiscale presso le sue sedi della società. Questo è. E avanti così. Quindi giustizia, Renzi prepara lo sgambetto post Emilia. A mia insaputa nel 2016 renziano Cucca firmò una norma uguale alla riforma Bonafede. Quindi è un po' strumentale, secondo Wanda Mara del Fatto Quotidiano. Il ruolo del premier dopo la mediazione conta chiedere una valutazione complessiva. Mentre allora ci spostiamo sulla giustizia anche in termini più ampi, perché parliamo di Stato di diritto, l'Europarlamento vota contro Polonia ed Ungheria. Via libera alla risoluzione con 446 sì, 178 no e 41 astensioni. Dunque, Polonia e Ungheria non rispettano i valori dell'Unione Europea sulla libertà di stampa, libertà di espressione, libertà anche di partecipazione al voto. Questo è quello che arriva dal manifesto, mentre sempre sulle questioni internazionali di giustizia legate all'Europa andiamo a una storia di vera e propria persecuzione, altro che Berlusconi, Salvini e quant'altro. La storia lui è Fabio Vettorel, raccontato in un libro scritto dalla madre, Giammilla Baroni, vietato a partecipare, Amburgo C20, storia di un processo. Noi allora come redazione l'abbiamo raggiunta per farci raccontare questa assurda vicenda, a lei la parola. Questa odissea è cominciata il 7 luglio del 2017, quindi stiamo parlando di più di 2 anni fa, ad Amburgo, quando mio figlio è stato fermato durante una manifestazione ed è stato arrestato ed è rimasto in carcere per 5 mesi di custodia cautelare. Nel momento in cui questa manifestazione viene, chiamiamola, fermata con una certa brutalità da parte della polizia, tutti scappano, lui si ferma insieme alla sua amica a soccorrere una ragazza ferita e viene fermato in quella occasione. E l'arresto con quali motivazioni? Il capo di imputazione iniziale è disturbo della pace cittadina, lo chiamano in Germania. Quando poi è iniziato il processo hanno aggiunto 3-4 capi di imputazione: assalto, tentate lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Tutti questi capi di imputazione senza che lui sia mai stato comunque accusato di aver compiuto un qualsiasi reato personalmente, ma quello che gli viene contestato è l'appoggio psicologico. La vicenda di Fabio ha fatto abbastanza clamore e anche questa reclusione preventiva, su questa reclusione preventiva venivano agitati dei forti dubbi sul fatto che le autorità, insomma, cercassero dei pretesti, non avessero prove per dimostrare appunto che fosse necessaria. Sì, hanno cercato veramente, sono anche riusciti, perché siamo arrivati fino al 3° grado di processo senza che sia stato possibile comunque mettere fine a questa detenzione preventiva, utilizzando qualsiasi sistema, quindi scrivendo che lui era un violento, che aveva delle tendenze criminali, che aveva delle carenze di educazione, una serie di passaggi che erano anche in Germania indispensabili per poter tenere comunque in carcere un ragazzo di 18 anni incensurato. Allora, io ho passato 8 mesi ad Amburgo, 5 mesi Fabio è rimasto in custodia cautelare. Quando è iniziato il processo, ad ottobre, lui era ancora in custodia cautelare. È uscito dal carcere soltanto il 27 di novembre, quindi dopo 1.5 mesi di processo. Dopo abbiamo dovuto fare una serie di udienze, sentire una serie di testimonianze dei poliziotti, prima che i giudici si decidessero che non c'erano proprio le basi per poter continuare la custodia cautelare. Questa vicenda si è conclusa o ci sono ancora degli strascichi? Purtroppo la vicenda si è tutt'altro che conclusa, cioè si è conclusa nel fatto che dalla fine di febbraio 2018 Fabio non ha più nessuna limitazione, siamo tornati in Italia insieme, però il processo è stato sospeso ed è da rifare per un errore procedurale loro, e quindi dovrà iniziare nuovamente ed essere rifatto fin dal 1° grado. Ci sono anche però altre novità ad Amburgo. A settembre dell'anno scorso la procura ha deciso di fare un maxi processo a tutte le persone fermate durante quella manifestazione e ha chiesto che Fabio venga aggiunto a questo maxi processo. Stiamo parlando di un centinaio di persone e stiamo aspettando di vedere se il giudice accetterà questa richiesta, che lui venga aggiunto a questo maxi processo. Diciamo che la procura di Amburgo, nonostante siano passati più di 2 anni, come altre procure che anche in Italia conosciamo bene, non ha nessuna intenzione di dimenticarsi di questa cosa. Il titolo del tuo libro è abbastanza emblematico, vietato partecipare. Perché hai scelto questo titolo? La repressione delle manifestazioni è sicuramente un argomento di grande attualità, cioè in questo momento il vietato partecipare può essere applicato a tantissime proteste nel mondo, e quindi era veramente un titolo sicuramente molto attinente alla storia di Fabio, ma anche molto attinente a tutto quello che sta succedendo. Nelle fasi, diciamo così, anche più difficili, com'è stata la solidarietà che hai ricevuto? Ne hai ricevuta innanzitutto? Allora, ho ricevuto veramente tantissima solidarietà. Da una parte ne ha ricevuta tantissima Fabio in carcere, perché centinaia di persone gli hanno scritto, cioè le campagne Scrivimi hanno funzionato benissimo e lui riceveva moltissima posta, di cui era veramente molto molto felice. Tantissima solidarietà anche fuori, ci sono state veramente manifestazioni, presidi, raccolte di firme, c'è stato di tutto in Italia ma anche in Germania. Sinceramente la solidarietà è stata molta anche lì. Ecco, qual è l'umore di Fabio dopo questa vicenda? In questo momento è buono, però adesso deve andare ad Amburgo e sentire le novità dai suoi avvocati, quindi vedremo. Il tuo libro contiene anche 2 contributi, uno di Margherita D'Andrea e uno di Christian Raimo. Allora, Christian Raimo aveva seguito la vicenda già all'inizio, scrivendone proprio sulla storia di Fabio, e quindi è stato veramente molto disponibile a scrivere la prefazione del libro, definendo appunto reportage su mio figlio la storia. E Margherita D'Andrea è un'avvocatessa e osservatrice internazionale di Napoli, e lei ha seguito le udienze del processo di Fabio come osservatrice esterna. Diciamo, quello che si fa in paesi come possono essere, non so, la Libia, la Turchia, il Marocco, durante determinati processi, lei lo ha fatto ad Amburgo, in Germania, al processo di Fabio. Eh sì, questo la dice lunga, insomma. Sì, infatti ha avuto la possibilità, poi anche ha avuto la disponibilità di fare questa postfazione, questo approfondimento giuridico che si trova alla fine del libro. Ti chiedo anche se presenterai in giro il libro. Sì, allora io ho già fatto alcune presentazioni alla fine dell'anno scorso, il libro è uscito 2 mesi fa. Adesso la prossima settimana sarò giovedì 23 gennaio a Padova al Pedro, venerdì 24 gennaio a Bologna al Circolo Berneri, giovedì 30 sarò a Roma e venerdì 31 sarò a Firenze alla Libreria Salvemini. A febbraio poi ne farò ancora delle nuove. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Ma allora rimaniamo in Germania, tra le ombre, e erano ombre ben tetre quelle che abbiamo ascoltato, ci sono anche delle luci, almeno delle speranze, perché parlando di ambiente, Sebastiano Canetta ci dice: svolta epocale, Germania verso l'addio al carbone, leggo dal manifesto. Nell'accordo tra governo e Land, uscita definitiva entro il 2038, vi è subito 8 centrali. Uscita definitiva dal carbone al massimo entro il 2038, chiusura delle 8 centrali più obsolete già alla fine di dicembre e un'autentica pioggia di miliardi per i gestori degli impianti sotto forma di risarcimento per le spese per mancati introiti. E anche e soprattutto grazie ai soldi che arrivano dal Green Deal appena varato da Bruxelles, che trasforma la Germania nel maggior beneficiario dei fondi europei della clima insieme alla Polonia. Sono i termini dell'accordo chiuso ieri nel governo della notte tra il governo Merkel e i land indipendenti dal combustibile fossile più inquinante. Quindi, volendo, si può fare quello che invece viene detto: ah no, è impossibile, è un'utopia. E andiamo invece, si può fare anche di più volendo, ma da noi invece ci vuole molto meno, basta una minima proposta di plastic tax che si apre di cielo. E allora siamo a casa nostra, ma proprio nostra, siamo a Bologna col Corriere locale: polveri sottili ben oltre i limiti, da oggi stop alle auto inquinanti. Fino a lunedì fermi anche diesel Euro 4, la temperatura in casa massimo 19 gradi. Le previsioni in questa via Valpadana, che è anche una sorta di catino dove si raccolgono specificamente le polveri sottili, per ARPA e le PM10 restano o alte, per ARPA scusate, le PM10 restano alte fino a domani, e poi arriva una perturbazione. Questo è quanto che arriva dal Corriere di Bologna. Ma chi sono i colpevoli di queste polveri sottili? C'è anche un'ordinanza che vieta persino i camini di bruciare la legna nei camini o altre cose del genere. L'ambiente, secondo Luca Mercalli, noto ecologista, noto anche perché va spesso in televisione, il legno e il pellet inquinano, ma il pericolo vero è altrove. Quindi occhio alle armi di distrazione di massa. Pianura Padana: secondo i dati di ARPA e Life Prep Air, la combustione di biomassa è responsabile della metà delle polveri sottili al nord. Si emette carbonio, ma non si di origine fossile, che viene bilanciato dalla fotosintesi delle piante in vite. Questi poi riguardano i caminetti e le stufe, che non sono, secondo Mercalli, da demonizzare. Sì, Alfredo, in tema di ambiente, in questi giorni e di vivibilità delle nostre città, la fa da padrona la notizia dell'inquinamento, dei blocchi del traffico, anche se hanno scarsi risultati. Però voglio evidenziare iniziando con una ricerca che pubblica il Carlino, che si chiama La Cattiva Strada. SOS Buche in tutta Italia: in un anno sono morti 4 persone e 1.500 incidenti, e servono 42 miliardi per ripristinare le nostre strade. E nella morsa dell'inquinamento i diesel sono fermi, ma lo smog non cala. Bisogna intervenire sulle caldaie, anche qui a pagina 6 l'articolo di Alessandro Farrugia, appunto sul Carlino. Problemi in casa, il riscaldamento sotto l'accusa. A Roma le vetture a gasolio restano in garage. A Torino l'aria peggiora ed è scattato il provvedimento Viola, che obbliga tutti i diesel a restare fermi. In Emilia Romagna misure d'emergenza in molte province, l'allerta smog sale in Emilia Romagna con le misure emergenziali per contenere le polveri sottili e sono state prorogate fino a lunedì nella provincia di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ferrara, Ravenna, e da oggi, sempre fino a lunedì, scatteranno nell'area metropolitana di Bologna e anche nel Riminese. Sono previste, come diceva Alfredo, lo ricordiamo, piogge nel nord-est e c'è la svolta in arrivo. Le condizioni ancora favorevoli alla concentrazione dello smog nelle città italiane inizia a scremare da oggi e per tutto il fine settimana, poi farà seguito l'irruzione di una perturbazione che dovrebbe contribuire a ripulire l'area nelle regioni del centro e del nord-est. E la danza della pioggia la fanno anche in Australia, che appunto sembra che stiano cambiando le previsioni e che finalmente le piogge cercheranno di mitigare questa grande ondata di incendi. E continuiamo a parlare di ambiente con le pagine di Repubblica e poi andremo anche al Sole 24 Ore e nelle pagine locali di Bologna Repubblica, oggi divieti pure per le vecchie auto a benzina e in casa non ci vogliono più di 19 gradi, lo riprende Repubblica. Ma c'è anche una polemica da parte di Legambiente. Legambiente non ci sta, gli stop sono meglio a lunedì e durante la settimana, quando la gente utilizza i propri mezzi privati per andare al lavoro. Si vede dai dati, se le condizioni climatiche sono avverse i blocchi non sono sufficienti, serve una svolta vera, ha firmato Lorenzo Frattini, presidente regionale della Legambiente. Il numero uno della sezione Emiliano Romagnola mette nel mirino le misure presenti nel PAIR 2020, ovvero il piano di area integrato regionale, che al momento non sembrano essere in grado di dare risposte al problema sanitario delle nostre città e per risolvere la situazione di grave inquinamento che perdura da inizio gennaio. Questo spiega appunto l'associazione di Legambiente. Quali sono le cause? Dice: dal momento che il fondamentale lavoro della riqualificazione energetica degli edifici richiede tempi lunghi, e meglio concentrarsi sulle emissioni legate al traffico. Ancora altre notizie le prendiamo dalla Stampa. Nella Stampa c'è un'intervista al sindaco Emilio Del Bono di Brescia, e anche qui dice: si chiede al sindaco se sono davvero serve a poco bloccare il traffico per pulire l'aria. Dice: bloccare il traffico è solo un palliativo, è relativo all'impatto sulle emissioni, intanto perché le limitazioni colpiscono solo alcune categorie di veicoli, la riduzione delle polveri sottili c'è, ma il giorno dopo la fine del blocco tutto torna esattamente come prima. Penso alla Germania, dove sono stati stanziati 40 miliardi da investirle sul appunto il trasporto pubblico. E sempre sulla Stampa citiamo una fotonotizia in prima pagina, Berlino che apre all'Europa verde, subito il carbone. Il carbone, un'intesa di 50 miliardi è anche quella per l'Italia Green, così fan pochi ancora. Sempre dalle pagine della Stampa ci parla di Intesa San Paolo, che ha la sede appunto a Torino, che mette a servizio del nuovo patto verde europeo 50 miliardi di finanziamenti. È il segnale manifesto che la green economy si espande rapidamente ed è arrivata anche dalle nostre parti. Ancora un'altra notizia la prendiamo dalle pagine di nuovo della Repubblica, allerta in Emilia Romagna e ancora inquinamento e emergenza. E c'è una cosa curiosa e contraddittoria sull'informazione che riguarda l'ambiente, la segnala Vittorio Emiliani dal Fatto Quotidiano. Mentre sembra che l'ambiente sia sempre più importante nelle dichiarazioni, i pochi cronisti corsari sui temi dell'ambiente. Dice che si stanno rarefando i grandi personaggi che sui giornali scrivono d'ambiente. Nei grandi quotidiani, infatti, leggo dal Fatto Quotidiano da Vittorio Emiliani, difficile identificare gli specialisti affidabili, quelli che un tempo davano la linea. Tornando molto indietro nel tempo, penso ad Antonio Cederna sul Corriere, poi su Repubblica e poi sull'Espresso, a Mario Fazio sulla Stampa, ad Alfonso Testa su Paese Sera, a Vito Ramponi su Avanti e poi mi ci metto io pure per Giorno e Messaggero. Ma avevano spazio anche commentatori specializzati, emergono leader oggi introvabili come Fulco Pratesi per i WWF, mentre Giorgio Bassani e Bernardo Rossi Doria davano spicco e autorevolezza all'Italia nostra, diceva, non nella Rai che era un monoscopio ingessato, ma in molti altri contenitori di informazione. Quindi la morale è che ci vogliono più corsari, quelli che non hanno tante reverenze. Dello stesso tipo, le associazioni tradizionali sembrano infiacchite, ma ci vogliono più organi di informazione che ne raccolgono le motivazioni, le motivate denunce e anche le segnalazioni di successi. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è stato attivo e spesso convincente in questo accidentato momento governativo. Al MIBAC di Alberto Bonisoli ha fatto spesso confusione, Dario Franceschini suona di meno meno le trombe, ma nulla corregge della propria riforma che ha scassato la macchina ministeriale puntando, figuriamoci, soltanto sui musei e non capendo nulla del territorio. Critica molto secca di Vittorio Emiliani, che peraltro di musei se ne intende, insomma. Questo è quanto. Dalle vicende dell'ambiente passiamo agli ambienti delle grandi opere. Quindi siamo all'avvenire, dice, ecco, chiudiamo così l'ambiente, il clima, fare presto, l'avvenire, la Germania, le centrali non carbon fossili, l'Italia e le polveri sottili. Questo è un po' il pendolo del titolo apertura dell'avvenire, mentre il secolo del 19, e quindi veniamo alle autostrade. Autostrade cerca la pace col governo, max investimenti e 1000 assunti. Ma deve salire autostrade un'erta davvero complessa, perché leggo gli indagati, il Morandi e le pressioni sui periti. Questo è il Fatto Quotidiano. L'allarme del GIP, i consulenti del giudice spaventati da quelli delle parti, così non si può lavorare. Atti la procura che valuta altri, dico io altri, ci sono solo ipotesi di reato, mi sembra da aggiungere. Mosse del ministero, MIT commissaria e l'ufficio ligure, arriva il mastino Migliorino, già fatti lì 3 rilievi sulla A6. Barriere insicure, finora Aspi ha fatto solo meline invece di intervenire. E poi dossier revoca, le promesse dei Benetton non bastano. Non è d'accordo invece il Corriere, perché se il Fatto Quotidiano parla di revoca sicura, invece nella pagina economia del Corriere leggo: autostrade non ci sarà esproprio. Quindi la De Micheli, ristabilire l'interesse pubblico, il gestore, investimenti per 7 miliardi e mezzo e 1000 assunzioni. Abbiamo la stessa notizia data con naturalmente un taglio raccontato in modo diverso, ma è sempre un tentativo di rientrare in gioco, perché i guadagni sono troppo esosi per Atlantia e Benetton da lasciarli magari allo Stato o a qualche concorrente. Vengo invece alla mafia. Forse invece, vengo alla mafia, le bombe non ci fermeranno. Foggia, ieri secondo attentato in 2 settimane, scorte due fratelli imprenditori anti-racket. Questo è, allora c'è chiaramente una battaglia feroce per il territorio, minacce, negozi incendiati, così i clan di Pizzolandia, cioè il racket, ottengono i soldi e l'omertà. Sempre il Corriere, quell'articolo di Michelangelo Borrillo. Dagli imprenditori assassinati negli anni 90 le nuove intimidazioni, Conte non abbassiamo la testa, la Morgese invia rinforzi alla polizia. E nel frattempo, questo per la mafia, invece per l'ordine pubblico, oggi il via regolamento dal Consiglio dei Ministri, taser alle forze dell'ordine, voluta da Salvini, questa pistola elettrica che dicono indolore, a tutt'altro che indolore. Il taser entra ufficialmente nelle dotazioni di polizia, carabinieri e guardie di finanza. La pistola di impulsi elettrici viene già utilizzata in via sperimentale dalle forze dell'ordine in 12 città. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il regolamento per l'impiego dell'arma, dopo un passaggio al Consiglio di Stato tornerà in CDM, Consiglio dei Ministri, per il ok definitivo. Sì, di mafia ne parliamo anche dalle pagine della Stampa. C'è un'emergenza, ci dice, emergenza sicurezza, ci dice appunto Nicola Pinna. La criminalità ora punta sui piccoli enti e c'è un record di comuni sciolti per mafia, 45 gli enti locali affidati alla gestione commissariale sul territorio italiano, 340 i decreti di scioglimento degli enti emessi dall'entrata in vigore della legge, che è del 91, e appunto il 91 è l'anno in cui è scattata questa forma di prevenzione dell'antimafia. E sempre sulle pagine della Stampa riprendiamo la notizia: a Foggia una bomba esplode nella notte davanti a un centro anziani, Christian e Luca vigilante ci chiedono il pizzo, i fratelli anti-racket, ma noi non ci pieghiamo, e sono di nuovo nel mirino perché erano già stati presi di mira il 3 gennaio con l'auto del capo del personale della stessa struttura. Sempre sulla stessa stesse pagine della stampa c'è anche un'intervista a Vladimir Luxuria, Foggiano. Questo è il Far West e la gente ha paura e sembrano tornati gli anni di piombo. La serata di Capodanno l'abbiamo trascorsa in casa con le serrande chiuse, è una realtà accogliente e molto tollerante. Avevo organizzato un grande party gay pride. Questo ci racconta Vladimir Luxuria. E ancora di mafia se ne parla nelle pagine di Repubblica, rifà appunto la cronaca di quanto è accaduto a Foggia. E restiamo sulle questioni locali per parlare di librerie, perché c'è un grande problema e l'addio delle librerie è un'emergenza nazionale che occorre una legge. E questo lo dice ancora dalle pagine della stampa il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, che lancia un allarme globale. Occorrono misure di tutela per i librai, non ce la fanno più e sono sempre più poche le librerie indipendenti. Scuola divisa per ceti, preside verso la sfiducia. È il Fatto Quotidiano con Vincenzo Bisbiglia che riprende notizie di ieri di questo annuncio scandaloso che divideva le classi per ceti abbienti, le classi per ceti medi e le classi per ceti poveri. Dunque, la preside verso la sfiducia, dicevo, annunziata Marciano al centro delle polemiche, rischia il trasferimento. Genitori sono divisi, male interpretati, quelli che si iscrivono i figli alle scuole bene. È vero, i quartieri fanno la differenza. Le accusa, che vergogna, i bimbi sono tutti uguali, dice la cuoca della sede centrale. La cuoca ha perfettamente ragione, ma non funziona così. Provate a investire la macchina un bimbo povero o un bimbo ricco, vedete come sono i risarcimenti, altro che tutti uguali. Comunque, questa scuola differenziata è un frutto velenoso dell'autonomia scolastica. E allora dove bisogna avere clienti ricchi, cioè studenti ricchi, per avere la scuola ricca. Cosa si fa per un iscritto in più? Così funziona il mercato degli alunni. Oltre Roma Nord sono diversi i plessi che in base a ceto e censo di iscritti ineritano le famiglie, quindi non è lì ha avuto l'errore di scriverlo pubblicamente, invece si fa ma non si dice. Si dice appunto quando si incontrano i genitori giusti. Allora Antonello Giannelli dice: per formare l'offerta formativa più equilibrata e pacifica assumere informazioni. Non è che vado in una classe con tanti figli di operai, no. Invece Rosaria Danna si finisce per mettere in atto una concorrenza sleale tra le scuole per accaparrarsi gli studenti, quelli buoni, soprattutto che poi portano anche gli altri e portano anche i finanziamenti del governo. Questo è l'autonomia scolastica, quell'orrore costruito qualche anno fa. E allora in assenza di movimenti studenteschi forti che si muovono sulla scuola in particolare, e il manifesto in Marcordi importanti ci fa sulle tracce gioiose e incerte della Pantera. Ricordate quando la Pantera scappò dallo zoo di Roma, tutti la cercavano, nessuno la trovava nelle colline romane, diventò un simbolo di libertà e a questa si ispirarono gli studenti delle scuole liceali, delle università. Successe 30 anni fa con l'occupazione degli Atenei, un primo contributo di riflessione da due dei protagonisti è Antonio Conte e Marco Guarella è sul manifesto. Alla fine dell'89 il debutto a Palermo, a lettere seguirono le altre città. E vediamo che è una lezione che varrebbe anche oggi in teoria. Fu la scoperta che anche nel tempo del cinismo e del disincanto era possibile diventare di nuovo nel quotidiano una politica tutta nostra, senza chiedere al 77, cioè il movimento precedente, come si fa. Sì, passiamo all'argomento esteri e arriviamo subito in Libia, dove sulle pagine di Repubblica si parla appunto della crisi libica e domenica a Berlino c'è la conferenza di pace a cui parteciperanno e hanno già dato il loro assenso Serraji e Haftar. L'Europa è pronta a inviare militari in una seconda fase. Nella bozza del documento del vertice ci saranno anche il disarmo delle milizie e l'unificazione dell'apparato di sicurezza. E appunto queste sono le scelte previste appunto nel vertice di Berlino, ma Erdogan tira dritto e lui invia altri soldati e vuole iniziare a fare trivellazioni appunto sul territorio libico. E se continuiamo a parlare di territori in crisi, i covi dell'ISIS, c'è un reportage sempre su pagine di Repubblica. a cura di Fabio Tonacci, da Erbil in Iraq lo Stato Islamico è in fondo alla scarpata e un buco oscuro nella roccia porta dritto alla tana dove si sono rifugiati gli jihadisti. Questo è un articolo molto dettagliato su come fanno la guerriglia, appunto, le truppe dell'ISIS. Abbiamo bombardato le grotte, ma ce ne sono troppe, attaccarle via terra è impossibile, io perderei molti uomini. Questo lo dice Shirwan Barzani, comandante del sesto settore del fronte. Ai suoi ordini ci sono 14.500 peshmerga. I foreign fighter provenienti dalla Siria sono un allarme grave per la missione internazionale, che deve comunque continuare. E c'è al Sadi il generale che sconfisse il califfo a Mosul, parla appunto Abdel Sadi, 57 anni, generale dell'esercito iracheno. I jihadisti restano molto pericolosi e potrebbero presto colpire con attentati, suicidi anche in Europa come nel resto del mondo. E a proposito del resto del mondo, passiamo a Egitto, Etiopia e Sudan. C'è un primo accordo sulle acque del Nilo dopo anni di tensione. Grazie alla mediazione americana, i governi di Egitto, Etiopia e Sudan hanno raggiunto un primo accordo sulla gestione delle acque del fiume Nilo. Al centro della contesa c'era la grande diga del Rinascimento, impianto idroelettrico voluto ad Addis Abeba lungo il corso del fiume Sudan ed Egitto, che tenevano la barriera, temevano che la barriera potesse alterare la portata del Nilo, dal quale il Cairo dipende per il 90% degli approvvigionamenti idrici. Dall'America abbiamo la notizia che parte l'impeachment contro Trump e subito arrivano nuove accuse. Nei giorni in cui il Senato americano avvia formalmente la procedura di impeachment nei confronti di Donald Trump, il Government Accountability Office, un organismo indipendente di controllo del governo, aggiunge un nuovo elemento: le accuse nei confronti del Presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha violato la legge bloccando gli aiuti all'Ucraina, che erano già stati decisi dal Congresso, dice l'agenzia. Trump avrebbe usato il suo potere e la leva per forniture militari per danneggiare un suo rivale politico, spingendo il governo ucraino ad aprire un'inchiesta su Hunter Biden e il suo padre Joe, l'ex presidente e ora candidato favorito nella corsa alle nomination democratiche. Dopo le divisioni interne tra l'ala più moderata contraria all'impeachment e quella più radicale, a dicembre le rivelazioni sul caso ucraino avevano convinto i democratici ad aprire la procedura del Congresso. Questo è il terzo caso di impeachment in tutta la storia democratica degli Stati Uniti. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. This guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people. Sometimes I just get tired of you, honey. It's your hair spray or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people. And walk around, watch the Nazis run your town, then go home and check yourself. You think we're singing about someone else, but you're plastic people. Le Mother of Invention, Franz Zappa, Plastic People, dedicato ai presidenti nordamericani al plurale, non uno singolo. Detto questo, veniamo invece all'ultimo argomento da trattare, ma non last but not least. Verso il 26 gennaio, XM24, sgombro preelettorale che imbarazza il PD. Questo è Giovanni Stinco da Bologna e dal Manifesto. Polizia nella nuova sede del centro sociale di proprietà del CDP. Gli attivisti accusano i Dem che temono contraccolpi nell'urna. La Lega naturalmente sfrutta il caso. Su Comune e Regione non hanno saputo far rispettare la legge, quindi questo in improvvido atteggiamento del Comune si fa attaccare a destra e a sinistra e fa capire quanto manchi anche un'intelligenza politica oltre che un'attitudine alla vivibilità della città. Nuovo sgombro per il XM24, gli attivisti bloccano il traffico, questo è il Corriere di Bologna. Le forze dell'ordine liberano, si fa per dire, l'ex Ermassani, fumogeni in corteo, niente tensioni. Il mister Guerini in città, al via i progetti per Sani, Gucci e Palazzo delle Finanze a Staveco. Vediamo se magari spronate dall'urgenza elettorale si arriverà a un accordo, anche se per adesso non abbiamo notizie in questo senso purtroppo. Ma il centrodestra va all'attacco, ora nessuna tolleranza, per il PD una guerra, una grana sinistra, lista coraggiosa e coalizione civica, mandarli via una scelta miope. La Borgonzoni invece sul versante dell'altra parte, una Borgonzoni peraltro che viene sbeffeggiata dai social per le tante gaffe che ne fa uno dopo l'altro, ma lasciamo perdere, approfitta di questa vicenda di tra virgolette ordine pubblico. Ci vogliono le forze dell'ordine per ripristinare legalità e sicurezza. Non so chi deve andarci, secondo l'idraulico, francamente non si capisce. Comunque, Comune e Regione succubi dei centri sociali. Sì, questa è la notizia prevalente nelle cronache locali, ma c'è anche una bella storia di coesione multiculturale, multirazziale. C'è una storia di una scuola, la scuola Federzoni del quartiere Bolognina, e questa era l'ultima notizia della rassegna stampa. E abbiamo l'ultima invece informazione che è legata all'intervista, quindi tra le relazioni della politica si registrano le condanne dell'Emilia Romagna, coraggioso, potere al popolo, altre Emilia Romagna, dice la redazione. Silenzio assordante invece da parte della giunta comunale di Bologna. Oggi in Question Time la consigliera di coalizione civica Emily Clancy presenterà un'interrogazione, noi l'abbiamo raggiunta, sentiamo le sue parole, con questo vi salutiamo e risentirci alla prossima, ciao. Ciao. Io, Marco Trotta, Brunella Guida e molti nostri iscritti e iscritte siamo andati immediatamente proprio per condannare l'ennesimo sgombero, peraltro all'indomani della firma del protocollo d'intesa fra il sindaco e il ministro della difesa Guerini su alcune aree militari, non la caserma Sani, che tuttavia è stata citata dal sindaco proprio in questi giorni, che ha detto che a fine mese sarebbero usciti i progetti dei soggetti attuatori sulla caserma. Uno sgombero che stride ancora di più proprio perché negli ultimi giorni XM, dopo due mesi di iniziative socioculturali molto arricchenti e interessanti per la città e aver liberato uno spazio vuoto da decenni, aveva iniziato un vero e proprio progetto di urbanistica partecipata proprio sulla zona della caserma, e anche stamattina chiede un incontro al comune e a Cassa Depositi e Prestiti per parlare del futuro di quell'area che era vuota da decenni prima di questa occupazione, a cui è naturalmente seguito lo sgombero stamattina. Noi ci accodiamo a questa richiesta, c'è bisogno di spazi in città, l'ennesimo sgombero è intollerabile. XM24, l'hai già evocato, ha pronto diciamo un percorso di controprogettazione dal basso, anche perché contesta quella che è la destinazione decisa nel 2016 dal POC su quell'area, ovvero loggi privati, supermercati, alberghi, insomma progetti che il centro sociale definisce speculativi. Voi come vi posizionate in questa vicenda, cioè appunto gradireste un progetto diverso da quello che già insiste su quell'area? Certo, l'avevamo evocato già ai tempi di Labà e della caserma Masini, anch'essa parte di questo sfortunato POC che abbiamo contestato in tante sedi, penso anche ai prati di Caprara. È chiaro che con la visione di città attuale è una visione appunto di costruzione di supermercati, di cementificazione in cui non ci riconosciamo e che non dà una ricchezza anche a queste strutture gigantesche quali sono queste ex caserme, che potrebbero davvero essere restituite alla città dopo decenni come spazi di aggregazione e di sperimentazione, come fanno anche molte altre città europee peraltro, e che invece si pensano solo come posti che possono essere gestiti da una logica privatistica, ecco. E quale potrebbe essere invece, proprio per il destino specifico di XM24, una soluzione? Perché insomma questa mattina fa molto rumore il silenzio degli esponenti della giunta, mentre la capogruppo della Lega Scarano dice: mettete una croce sopra XM24, non sognatevi di fare un bando come fu fatto per la BA. Vabbè, queste sono dichiarazioni che non mi sento neanche di commentare, però ecco, il silenzio della giunta è molto pesante, soprattutto perché comunque c'era una trattativa in corso, sia quest'estate, che poi si è aperta con uno sgombero. C'è stata una seconda interlocuzione, anche lì non fruttuosa, e l'amministrazione non può tacere su uno sgombero in città. Cioè la politica non può abdicare completamente al suo ruolo, anche se non è un immobile di proprietà comunale. Non è possibile che il sindaco e la giunta non siano ancora fatti sentire e possano accettare l'ennesimo sgombero in città. Noi interrogheremo la giunta su questo nel question time di domani, l'abbiamo appena depositato, perché non può essere che la giunta rimanga silente su questi fatti.